Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Elezioni comunali, centrodestra in vantaggio a Venezia e Arezzo, testa a testa Reggio Calabria, Mantova e Trento avanti il centrosinistra. Regionali, i dati definitivi confermano il 3-3, Zaia dopo il plebiscito in Veneto conferma non mi interessa la leadership della Lega, Emiliano apre ai 5 Stelle, pronto a ogni apporto. Falsa la cittadinanza di Suarez, truccati test di lingua dell'attaccante del Barcellona all'Università di Perugia. Duplice omicidio a Lecce, uccisi in casa l'arbitro Daniele De Santis e la sua compagna. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. E allora cominciamo con i risultati elettorali. Ancora una volta, perché è archiviata la vittoria del sì al referendum e anche le elezioni regionali, in corso lo spoglio del voto per quanto riguarda le elezioni comunali. Allora facciamo il punto sui dati che stanno ancora affluendo con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno Alessio, è così, è in corso dalle 9 lo spoglio per le elezioni che riguardano 958 comuni, di cui 15 capoluoghi di provincia, oltre alla regione Valle d'Aosta per circa 6 milioni di elettori. L'affluenza definitiva, ricordiamo, è stata del 66,19%, in crescita rispetto a 5 anni fa. E secondo le ultime proiezioni di Opinio Rai sembra certa la riconferma a Venezia del sindaco uscente di centrodestra Luigi Brugnaro, che potrebbe essere addirittura eletto al primo turno. Brugnaro è infatti al 53,3%, seguito da Pierpaolo Baretta del centrosinistra al 29,2%, Sara Wiesmann, Movimento 5 Stelle al 5,1%. Verso la riconferma anche Ghinelli del centrodestra ad Arezzo, testa a testa invece a Reggio Calabria tra il primo cittadino uscente Giuseppe Falco Matà di centrosinistra al 35,8% e il candidato del centrodestra Nico Minicucci al 34,8%. Testa a testa anche a Trento per Franco Ianeselli del centrosinistra, stimato al 50%, mentre il centrodestra con Merler è fermo al 32,3% e a Bolzano tra Caramaschi centrosinistra 36,1% e Zanini centrodestra 34,8%. E a Mantova invece sembra probabile la vittoria al primo turno per il centrosinistra di Mattia Palazzi, ora al 68,3%, mentre a Matera Rocco Sassone centrodestra sarebbe al 30,4%, Domenico Bennardi 5 Stelle al 27,6%. Si profila dunque un ballottaggio che sarebbe l'unico con un candidato pentastellato. A te Alessio. Grazie Alessandra per questi aggiornamenti. Per quanto riguarda invece le elezioni regionali, dicevamo, con il 3-3 confermato dai dati definitivi, si tratta delle affermazioni di Giani in Toscana per il centrosinistra, di Acquaroli nelle Marche per il centrodestra. Negli altri casi sono delle riconferme, come è il caso di Zaia, Toti, De Luca ed Emiliano. L'analisi di Daniele Biacchessi. È la riconferma di molti governatori, una delle tendenze delle elezioni regionali che si sono svolte tra domenica e lunedì in abbinata al referendum. I nomi di questa impresa, per alcuni certamente non facile, sono Luca Zaia, Vincenzo De Luca, Giovanni Toti, Michele Emiliano. I quattro governatori confermati hanno vinto perché riconosciuti dai loro concittadini come solidi sul piano politico, istituzionale, efficaci e diretti nella comunicazione, per essere coloro che hanno proposto anche negli ultimi mesi di gestione dell'emergenza sanitaria un punto di vista anche autonomo da quello espresso dalla parte che li ha sostenuti. Ha ragione De Luca quando dice che la sua vittoria è andata ben al di là della contrapposizione centrodestra-centrosinistra e i numeri reali lo dimostrano. Si sono imposti di larghissima misura sui deboli sfidanti con percentuali che superano di gran lunga gli schieramenti di riferimento, quindi andando a pescare elettorato sul campo avversario. Zaia 76,8%, De Luca 69,6%, Toti 56,1%, Emiliano 49,6%. Dunque non è stata applicata la logica nazionale che secondo alcuni analisti avrebbe dovuto influire sull'esito delle regionali. I governatori sono certamente la nuova leadership del paese. E ora le conseguenze, le ricadute sul piano nazionale del voto, di questa tornata di voto, lo scampato pericolo per il centrosinistra in Toscana, ma anche il sì al referendum con risultato sostenuto dal Movimento 5 Stelle, sembrano blindare l'azione dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Sentiamo però quali sono i prossimi obiettivi. Il giorno dopo la tornata alle urne, la battaglia si sposta sulla legge elettorale e sul MES. Movimento 5 Stelle e PD sono pronti al Germanicum, ma all'interno della maggioranza la soglia di sbarramento al 5% è troppo alta per Italia Viva e LeU, che in Commissione Affari Costituzionali alla Camera o non hanno partecipato al voto o si sono astenuti. Proporzionale avversato dalla Lega, ma non solo, da tutto il centrodestra che preme per il maggioritario. Altra questione è il MES, il fondo salva stati che il PD vorrebbe utilizzare per la sanità, che riceve però il no dei 5 Stelle. Gli equilibri nel governo però sono cambiati. Se i 5 Stelle possono attribuirsi la vittoria del sì del taglio dei parlamentari, il PD fa notare di essere il primo partito in Italia nelle 7 regioni in cui si è votato, al 24% contro il 16,8 della Lega, ma soprattutto contro l'8 e il 9 del Movimento, che fa ammettere a Luigi Di Maio la sconfitta. Così se i Dem non premono più per il rimpasto, vogliono comunque avere più voce. Propongono con Andrea Orlando un'alleanza strutturale giallorossa, anche perché, fa notare Antonio Misiani, il PD ha vinto anche senza i 5 Stelle. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parleremo ancora più avanti del risultato di questa tornata elettorale. Andremo con il governatore della Liguria, confermato Toti, e anche con un sindaco di centrosinistra. Adesso ci occupiamo del contagio di coronavirus che in Europa torna a preoccupare. A Madrid 6 distretti della città sono isolati, in Gran Bretagna 15 milioni di persone sottoposte a restrizioni, in Francia metà dei dipartimenti è zona rossa, motivo per il quale il ministro della Salute Speranza ha annunciato l'obbligo di tampone per i cittadini provenienti dalle zone interessate della Francia. Nuove restrizioni e allarme seconda ondata in Europa. Diventa obbligatorio il tampone per chi arriva in Italia dalla Francia. A stabilirle l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha esteso l'obbligo di test molecolare o antigenico a cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus. Le regioni indicate nell'ordinanza sono confinanti con l'Italia, ma anche la costa nord e sud e nel cuore del paese. Intanto metà della Francia è zona rossa, 50 i dipartimenti su 96 totali, con contagi superiori a 50 ogni 100.000 abitanti. Oltre Alpe, nuove restrizioni, vietata la vendita e il consumo di alcol all'aperto tra le 20 e le 6, obbligo di mascherina all'esterno e nei luoghi pubblici, all'interno di bar e ristoranti e tra i tavoli, distanza di almeno un metro, con un massimo di 10 persone, stesso limite anche per le riunioni di famiglia, no al ballo. A rischio di un nuovo picco anche la Gran Bretagna, Madrid si blinda contro il virus ed è allarme in Germania per l'aumento di contagi. Sono stati registrati il doppio rispetto a ieri di nuovi casi nelle ultime 24 ore. Le regioni più colpite sono il Nord Reno-Westfalia e la Baviera. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora un'inchiesta che riguarda una truffa eccellente, quella che sarebbe andata in scena all'Università di Perugia per concedere la cittadinanza italiana al giocatore attaccante del Barcellona, Luis Suarez. Metti un bomber da 10 milioni a stagione, metti una prova d'italiano come scoglio per la cittadinanza ed ecco che gli esaminatori delle università per stranieri si ritrovano a dire: non spiccia una parola, ma ti pare che lo bocciamo? Parla di esame farsa il neo procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, nelle 8 pagine del decreto con cui manda la Guardia di Finanza ad acquisire documenti sull'esame sostenuto il 17 settembre da Luis Suarez, l'attaccante del Barcellona, in trattativa con la Juventus. Gli argomenti sarebbero stati concordati prima, come pure il punteggio, e questo nonostante una conoscenza elementare, scrive il procuratore, della lingua italiana. Deve passare, perché con 10 milioni di stipendio non glieli puoi far perdere perché non hai il livello B1. Registrano le intercettazioni agli atti dell'inchiesta per rivelazione di segreto d'ufficio e falso, che vede indagati il rettore Giuliana Grego Bolli, il direttore generale, la docente incaricata di preparare il calciatore e quella che ha predisposto l'attività stato e poi l'esaminatore Lorenzo Rocca, lo stesso che così con una radio spagnola parlava dell'esame di Suarez. Esame di livello B1 come modalità parlato, il ragazzo comprendeva sempre, per cui immagino che avesse seguito dei corsi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora la cronaca, torna in carcere Pasquale Zagaria Ergastolano, fratello del capoclan dei Casalesi Michele. Il boss è stato trasferito questa mattina nel carcere di Opera a Milano, la struttura individuata dal DAP come luogo idoneo per la sua detenzione. Zagaria, lo ricordiamo, era stato scarcerato ad aprile dal giudice di sorveglianza di Sassari, lo stesso che ha poi sollevato la questione di legittimità costituzionale contro il decreto Bonafede che invece obbligava al rientro in carcere. La polizia di Lecce sta cercando un uomo sulla sessantina per il duplice omicidio avvenuto ieri sera in un condominio del centro. Tra le vittime l'arbitro Daniele De Santis. Continua a Lecce la caccia al killer. Un uomo vestito di nero con guanti di pelle, passamontagna calato sul volto e zainetto di colore giallo, che ieri sera sarebbe stato visto allontanarsi da un condominio di via Montello vicino alla stazione ferroviaria, teatro di un duplice omicidio. Le vittime sono un arbitro di calcio noto negli ambienti della serie B e C, Daniele De Santis, di 33 anni, e la sua compagna Eleonora Manta, una psicoterapeuta di 30 anni. I due giovani sono stati uccisi con numerose coltellate inferte dal killer, forse per una lite, dopo essere stati inseguiti sulle scale del condominio dove abitavano. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito delle urla e di aver visto un uomo fuggire con un coltello in mano. Il fatto che il killer avesse il volto coperto fa pensare ad un gesto premeditato. A dare l'allarme è stata una coppia di anziani inquilini dello stesso condominio delle vittime, che hanno chiamato subito il 118, ma ogni tentativo di rianimare i due giovani è stato inutile. Gli investigatori, per i quali il duplice omicidio potrebbe avere un movente passionale, stanno ora verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona alla ricerca di immagini utili alle indagini. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era una notizia che riguarda l'ambiente e la flora marina. Soccorritori al lavoro in Tasmania per portare in salvo quante più balene possibili. Ce ne sono 270 spiaggiate, 90 sono già morte, 25 sono state recuperate oggi. 25 delle 270 balene arenatesi in Tasmania ieri sono state liberate, ma per 90 di loro non c'è stato nulla da fare. I soccorritori stanno lavorando senza sosta per portare via gli esemplari vivi dalle secche. Si sta usando una gigantesca lettiga, una sorta di fionda messa sotto la pancia della balena che poi viene trainata verso il largo. Si tratta di animali che possono pesare ben più di una tonnellata e dunque il salvataggio procede lentamente. A guidare i lavori un team di oceanografi esperti di cetacei che confermano si tratti del più grande spiaggiamento di massa mai verificatosi in questa zona, già teatro di eventi simili. Cosa può aver causato questo fenomeno? Lo abbiamo chiesto ad Antonella Arcangeli, biologa marina dell'ISPRA. Uno dei fattori anche molto studiato e molto attenzionato in questo momento è i fattori di stress molto forti legati ad un'attività umana. Se si pensa a attività di ricerca di idrocarburi, le attività le ispezioni sismiche che usano queste esplosioni ad altissima intensità che possono determinare dei danni animali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 12 minuti, facciamo una piccola pausa. Dopo la sintesi della giornata di oggi ritorniamo con le altre notizie, gli approfondimenti. Ripartiremo da due amministratori appena eletti, appena riconfermati, il presidente della Liguria Toti e il sindaco di Mantova Palazzi, entrambi una riconferma quasi plebiscitaria per quanto riguarda il sindaco di Mantova. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Elezioni comunali, centrodestra in vantaggio a Venezia e Arezzo, a Mantova e a Trento avanti il centrosinistra. Regionali, dati definitivi confermano il 3-3. Zaia, dopo il plebiscito in Veneto, conferma: non mi interessa la leadership della Lega. Emiliano apre ai 5 Stelle, pronto a ogni apporto. Inchiesta sulla falsa cittadinanza italiana di Suarez, truccati i test di lingua dell'attaccante del Barcellona all'Università di Perugia. Duplice omicidio a Lecce, ucciso in casa l'arbitro Daniele De Santis e la sua compagna. Le 13:17, eccoci qua in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. Ed è con noi il neo presidente riconfermato della regione Liguria, Giovanni Toti, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Toti, a cosa pensa che possa essere dovuta questa sua riconferma? Un voto ampio, ha superato il 50%, un voto che, a dire la verità, allineato con i risultati di riconferma di altri suoi colleghi come De Luca in Campania, Emiliano in Puglia, Zaia in Veneto, suona un po' anche come una riconferma proprio del carattere anche di governo istituzionale di queste figure e di questi governi che sono stati premiati. Forse anche qualcuno ha detto, Toti, per il modo in cui è stata gestita l'epidemia di coronavirus, un fatto che ha condizionato tantissimo evidentemente l'opinione un po' di tutti noi. Tanto diciamo che Liguria era l'unica regione in cui si era concretizzata quell'alleanza specchio del governo romano tra il Partito Democratico e 5 Stelle, nella regione in cui sono nati, e la sinistra. Direi che quell'alleanza francamente non è piaciuta, è risultata indigeribile agli elettori liguri, è il peggior risultato che i partiti che la compongono hanno avuto in regione Liguria, diciamo, dalla loro nascita fino ad oggi, mentre il centrodestra con il 56% ha il miglior risultato della storia repubblicana recente passata in questa regione. Credo che all'origine di quel risultato ci sia il serio lavoro di amministrazione che abbiamo fatto in questi anni e che ci ha portato anche a conquistare tante delle città che mai avevamo governato in questa regione, insomma Genova, Spezia, Sarzana, Savona, città dove il centro-sinistra da sempre era culturalmente egemone, mentre oggi non è così. Il risultato della lista del governatore si affianca al risultato della lista di Zaia, perché siamo il primo partito in questa regione ed è francamente un fatto nuovo che la regione Liguria non sia il Partito Democratico ma una lista che porta il nome del governatore. Il primo partito, credo che sia un segnale abbastanza chiaro anche al governo che gli elettori dei territori vogliono avere sempre più maggiore autonomia e un rapporto diretto con i loro governanti. Lei dice, insomma, sottolinea come sia stata, ed è effettivamente così, l'unica alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle nella sua regione, è stata ampiamente bocciata la candidatura di Sanza, che forse ha pagato anche una inesperienza dal punto di vista politico, perché comunque non aveva alcuna esperienza alle spalle. Le chiedo, visto che questo è innegabile, il centro-sinistra perde anche le Marche, secondo lei il governo, l'alleanza di centro-sinistra con i 5 Stelle, come esce da questa tornata elettorale? Ma direi come esce dall'attività di governo piuttosto male, per la verità, nonostante la personale stima per qualche ministro di questo governo. È un'alleanza che nasce in Parlamento, è un'alleanza che nasce per evitare che Salvini vada, diciamo, al traguardo in modo netto e vinca le elezioni nell'estate scorsa. È un'alleanza che si porta tutte le incompatibilità che i due partiti portano con sé, e da una parte i redditi di cittadinanza, un moralismo che anche ha ammantato la campagna elettorale qua in Liguria, tipicamente grillino e non certamente amato dalla sinistra, che invece qua ha sempre avuto profonde radici nel mondo della produzione, delle fabbriche, della crescita, del porto. Quindi è un'alleanza di necessità e come tale difficilmente penso possa maturare in alleanza politica, anche se loro legittimamente ci provano. Senta, Toti, lei accennava a Salvini, lei è anche un leader di caratura nazionale da questo punto di vista, si è impegnato anche nel dibattito nazionale. Le chiedo, se il centrodestra esce abbastanza bene come coalizione di governo da questa tornata, però forse Salvini, il leader della Lega, forse non così tanto bene, l'unico regione strappata al centro-sinistra è un candidato di Fratelli d'Italia, le Marche, forse non ha aiutato a evocare il 6-0 che poi è diventato un 3-3. Secondo lei Salvini esce un pochino più ridimensionato da questo voto? Ma guardi, in realtà con Luca Zaia la Lega segna il miglior risultato di tutti i tempi, forse in una regione. Certamente qua e là c'è uno degli architravi di questa alleanza di governo. Susanna Ceccardi ha fatto una generosa e anche molto capace campagna elettorale, ha portato il centrodestra al 40% in una regione storicamente rossa. Io non vedo tutta questa negatività nel risultato elettorale. Poi da tempo dico all'amico Salvini, come dico all'amica Meloni, come ho detto a mio tempo anche al presidente Berlusconi, che il centrodestra ha bisogno di un tagliando. Occorre che i leader politici nazionali comincino a realizzare in funzione della coalizione, non delle singole bandiere di partito. Quando, ricordo, Berlusconi è stato capo di questa coalizione nel primo ventennio della Seconda Repubblica, si faceva carico dell'equilibrio all'interno della coalizione, della visibilità di tutti. Talvolta cresceva un partito, tal'altro ne cresceva un altro, ma era la somma quella che era l'importanza, perché vi era un riconosciuto capo della coalizione. In questo momento il centrodestra mi sembra un centrodestra piuttosto atomizzato, dove ognuno pensa più alla propria bandiera di partito che non al bene comune, dove pensiamo al bene comune come in Regione Liguria, dove c'è stata una regia e dove abbiamo lavorato 5 anni bene, in modo serio, siamo stati premiati. Quindi questa è, credo, la vera riflessione che dovrebbero fare tutti i leader nazionali: come trasformare la somma di partiti in qualche cosa che sia più coerente, che prenda il posto di quell'alleanza che per 20 anni è stata nella Seconda Repubblica, ma che oggi ha bisogno di tagliare. Se lo faranno, credo che queste elezioni vengano bene, diciamo, uno spunto di riflessione interessante. Spero siano capaci di farlo. Grazie Toti, grazie. Grazie al presidente della Regione Liguria, riconfermato, Giovanni Toti. Ci spostiamo, ma non di tanto, andiamo a Mantova con Mattia Palazzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sindaco uscente, ci dà anche la notizia, sindaco riconfermato? Ancora non, i seggi non sono stati tutti scrutinati, diciamo che la tendenza però è una tendenza molto positiva. Al momento lei è accreditato a quale risultato? Adesso sinceramente meglio non ricordo, ma siamo oltre il 65-66%. Comunque un risultato ampio che la mette al riparo, pare, sì. E anche senza necessità naturalmente di andare a un secondo, insomma, un ballottaggio. Senta, le faccio la stessa domanda che ho fatto anche a Toti, no? Come si spiega questo risultato? Siamo in una provincia, in un'area storicamente ascrivibile forse all'area del centro-sinistra, pur essendo Lombardia, nelle vicinanze del Veneto, che invece è tradizionale feudo leghista, però insomma Mantova è stata amministrata da socialisti, popolari e poi anche il Partito Democratico. C'è stata una parentesi centrodestra, adesso lei viene riconfermato. Perché? Presumo perché abbia lavorato bene. D'altronde, se il dato che si conferma è questo, vuol dire che ho preso almeno il 20% dei punti o quasi da elettori non di centrosinistra, che vuol dire evidentemente che hanno premiato la qualità del lavoro amministrativo, tante cose fatte e non... e non chi è venuto qui come ha fatto Salvini chiedendo ai mantovani di votare per la Lega, perché così mandava a casa Conte. Quindi un mantovani voto montano, sì, per Mantova, non per la Salvini o per Conte. Un voto dove pesa, un voto per le regionali ma anche per le amministrazioni locali, ancora di più per i comuni, dove pesano veramente le regioni, le ragioni del territorio, lei dice. Perché per esempio c'è una dichiarazione poco fa di Emiliano che dice, commentando il risultato in Puglia: la Lega è scesa dal 25 al 9%, significa che un mare di elettori leghisti ha votato per noi. E parla proprio della... insomma, del, ma io mi ritrovo molto nella dichiarazione che ha fatto Zaia quando dice: ho governato e non sono andato in giro a fare comizi. Non so se io la faccio mia, diciamo, la faccio mia rispetto... Cioè fa sua quella di Zaia e non quella di Emiliano? No, faccio mia quella di Zaia, perché chiaramente può essere chiaramente riconducibile ad esempio a Salvini, sì, perché qui è venuto proprio a fare solo dei comizi, ma soprattutto perché il dato vero è che, se, ripeto, mi attesta attorno al 65%, a Mantova nessuno mai vinto il primo turno, se in più si dovesse vincere con questa percentuale, è chiarissimo che i mantovani hanno scelto l'amministrazione della loro città. E non si sono fatti tirare dentro in una dinamica nazionale, di voto nazionale, ma hanno scelto il sindaco che secondo loro rappresentava meglio Mantova. Questa è quella stessa cosa che ha detto evidentemente Zaia rispetto al Veneto, così come è quello che ha detto Emiliano. Però mi sembra eclatante. Ad oggi la mia lista civica si attesta attorno al 28%, sono iscritto al PD. Ho fatto una lista civica anche 5 anni fa, presi allora il 13, adesso siamo attorno al 28. È chiaro quindi che tanti elettori non di centrosinistra hanno scelto di votare il candidato sindaco. Grazie anche a Mattia Palazzi, grazie per essere stato con noi, al sindaco uscente e riconfermato di Mantova. Insomma, giusta o sbagliata che sia, la valutazione e anche l'operato delle amministrazioni che erano, diciamo, all'esame di questo voto, sembrerebbe che gli elettori in alcuni casi almeno abbiano deciso di votare molto su quello e poco sulle campagne in televisione, le campagne nazionali, gli interventi dei leader politici nazionali, che naturalmente cercano poi di portare acqua al loro mulino. Qua si è votato per comuni e regioni e sembrerebbe che la valutazione sia stata centrata su questo. A me sembra un fatto positivo. Adesso alle 13:27 minuti parliamo della settimana della moda che si apre a Milano oggi, tra eventi in presenza ed eventi invece naturalmente virtuali, come sta accadendo da mesi a questa parte. Sentiamo come ce la stiamo cavando. Prima capitale della moda ad organizzare una Fashion Week anche in presenza, dopo l'edizione di luglio completamente digitale, Milano sfida la crisi con la formula Figital, metà fisica, metà digitale. 159 appuntamenti in calendario, 64 sfilate, di cui 23 live e 41 in remoto. Lo spirito è quello dei pionieri, ci dice Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana. Siamo in un momento in cui dobbiamo dimostrare, perché la moda ha sempre fatto da apripista, che bisogna trovare una strada di convivenza con il virus, con questa situazione. Dobbiamo cercare di convivere applicando delle norme molto accurate, molto attente, ma andando avanti per non fermare la nostra industria. Il settore in questo momento è in grave sofferenza perché molti mercati sono fermi, soprattutto l'Europa e gli Stati Uniti. Si è ripreso a partire da giugno la Cina e le Far East, quindi lì i numeri iniziano a girare, ma prevediamo una fine anno con percentuali che vanno dal meno 25 al meno 30% di fatturato rispetto allo scorso anno. Rivoluzione anche per le modelle, per la maggior parte italiane ed europee, nessuna da Russia, Stati Uniti e Brasile. Il settore vale 90 miliardi di euro, per oltre il 75% grazie al mercato estero. Forte di un contesto sanitario più favorevole e di protocolli rigorosissimi, la settimana della moda milanese si prende tutta la scena internazionale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:29 minuti, facciamo una pausa, torniamo tra poco, informazioni di borsa e poi insomma i titoli e tutte le altre notizie. Ripartiremo da cosa succede adesso in Parlamento dopo il voto che ha confermato al referendum il taglio dei parlamentari. 349-238-6666, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi, elezioni comunali, centrodestra in vantaggio a Venezia, testa a testa Reggio Calabria, Mantova avanti il centrosinistra. Regionali, i dati definitivi confermano il 3-3, Zaia dopo il plebiscito in Veneto, non mi interessa la leadership della Lega, Emiliano apre ai 5 Stelle. Dopo la vittoria del sì al referendum, cosa succede, quali altri cambiamenti sono necessari, ne parliamo tra poco. Falsa la cittadinanza italiana di Suarez, truccati i test di lingua dell'attaccante del Barcellona all'Università di Perugia, ma il calciatore non è indagato. Alle 13:35 minuti c'è proprio un aggiornamento, cari ascoltatori, che avete sentito dai titoli, riguarda l'inchiesta di Perugia, che ha toccato il calciatore uruguaiano Luis Suarez, che non è indagato dalla Procura di Perugia, che coordina gli accertamenti sul suo esame di italiano, questo è il punto, all'Università di Perugia, che poi gli hanno consentito di ottenere la cittadinanza. Ci sarebbe stata una truffa, lui però appunto non risulta essere indagato. Adesso torniamo ad analizzare un po' anche i risultati di questa tornata elettorale. Ancora una volta lo facciamo con il vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Diciamo la verità, il difficile viene adesso. Dopo il sì al taglio dei parlamentari bisogna rifare la legge elettorale. C'è già una prima bozza chiamata Germanicum, prospetta il sistema proporzionale con una soglia minima al 5%, ma Renzi e Leu che fine fanno? La lasceranno passare senza fiatare? Con le preferenze o si lascerà mano libera alle segreterie di partito che avranno sempre più potere? Le camere, tagliate così come sono state dal voto, non possono funzionare, per questo bisogna rivedere i regolamenti di Camera e Senato e magari accorpare qualche commissione perché non ci saranno abbastanza parlamentari per farle funzionare tutte. Siamo sicuri che è un bel segnale per la formazione della volontà democratica? Si dovranno tagliare poi i 58 delegati regionali previsti per il voto sul Presidente della Repubblica? Se così non fosse, avrebbero troppo peso rispetto al numero dei parlamentari effettivo. Ma siamo sicuri che il voto che fa soffiare il vento dell'autonomia territoriale sempre più forte lo consentirà così facilmente? Per chiudere, una piccola curiosità. Lo sapete che, stando ai sondaggi di ieri, se si votasse con la legge proporzionale messa in cantiere da PD e 5 Stelle per un nuovo Parlamento tagliato, solo Fratelli d'Italia guadagnerebbe qualche seggio? Gli altri perderebbero tutti. E allora, ci colleghiamo ad alcuni degli argomenti sollevati da Alberto Rioli. Lo facciamo con l'onorevole Stefano Ceccanti, del Partito Democratico, costituzionalista, membro del Comitato per la Legislazione della Camera. Ha sostenuto il sì al referendum. Ceccanti, benvenuto. Buongiorno. Allora, ha sentito legge da rifare, ma anche quindi questione di quale legge fare. C'è un accordo sul proporzionale, la questione degli sbarramenti, perché nella coalizione ci sono partiti piccoli, e poi la questione dei regolamenti parlamentari che andrebbero modificati. Ceccanti, cosa succede adesso? Quali sono le ricadute dirette di questo voto che ha confermato la riforma costituzionale? Ma guardi, a me sembra che, a dire la verità, più che occuparci di legge elettorale e regolamenti parlamentari, dobbiamo discutere delle altre riforme costituzionali, di quelle che sono già in campo, perché queste hanno già una priorità cronologica. Noi abbiamo avuto la questione del voto ai diciottenni, che è importante al Senato, perché al Senato sono esclusi 18-25 anni dal voto. È un'anomalia democratica, perché in nessuna Camera politica si possono escludere una parte dei maggiorenni dal voto, e risponde anche a un'esigenza pratica di evitare maggioranze diverse tra Camera e Senato. Questo testo è già stato approvato in identica forma dalla Camera e dal Senato, e ora deve tornare alla Camera e al Senato per chiudere, e questo si potrebbe fare tranquillamente entro fine anno. Però questo, scusi Ceccanti, va benissimo, anche se sembra un po' meno dirimente rispetto alla legge elettorale, ma è vero che è meno dirimente, mi scusi, perché siccome uno dei problemi... Domanda forse gliela ripongo da questo punto di vista, cioè cosa è necessario modificare affinché il taglio al numero dei parlamentari possa entrare in vigore tranquillamente, per esempio la questione dei collegi legge elettorale? Mi scusi, però forse è questo che non si capisce. Dal punto di vista della legge elettorale non c'è nessun vuoto, nel senso che c'è una leggina, la leggina 51 del 2019, che prevede un adeguamento automatico della legge Rosato ai nuovi numeri. Entro due mesi si fanno i collegi e la legge è completa. Poi uno può dire, appunto, poi i collegi vanno fatti. Questo deve... Entro due mesi c'è la procedura. Okay. È garantita la procedura 51-2019. Questo però chi lo deve fare? Lo deve fare il governo o il Parlamento? Lo deve fare il governo. C'è tutta la procedura della legge 51-2019 che fa una pausa. Sì. Davanti al Parlamento, che fa un parere, e il governo fa il testo definitivo entro due mesi. Quindi non c'è un vuoto di legge elettorale, c'è un'esigenza politica di cambiare la legge elettorale. Però ribadisco il punto: in questo schema che voi ora proponete, state sottovalutando che sono più importanti le riforme costituzionali. Perché senza quella che fa votare 18-25 anni, l'idea di avere una legge elettorale comunque identica tra Camera e Senato produrrebbe tendenzialmente maggioranze diverse, come è capitato nel 50% dei casi una volta in poi. L'altro punto fondamentale, cioè quello in cui c'è un rischio di sottorappresentazione eccessiva delle minoranze nelle regioni più piccole, sì. Non è risolubile per via di legge elettorale se prima non si cambia la Costituzione, come da riforma Fornaro, che è previsto che vada in aula alla Camera prima della legge elettorale. Perché la riforma Fornaro supera la base regionale del Senato e consente dopo, nella legge elettorale, di fare circoscrizioni pluriregionali. Questo è il correttivo della legge Fornaro, che cosa prevede? Ricordiamo, quindi lei ha detto un iter, il voto ai diciottenni e correzione per quanto riguarda le minoranze. Il voto ai diciottenni è un provvedimento a parte, sì, che è già stato approvato dal Camera del Senato e deve tornare. Sì, no, stavo ricordando quello che lei ha detto, cioè l'ordine cronologico delle riforme che secondo voi vanno fatte. Ecco, poi abbiamo la Fornaro. La Fornaro contiene due correttivi importanti. Il primo è il superamento della base regionale. Il Senato oggi è eletto su base regionale, che vuol dire che non si possono fare circoscrizioni di più regioni. Tolta la base regionale, e è possibile poi fare una legge elettorale che prevede circoscrizione di più regioni per rappresentare di più le minoranze, ma prima bisogna che passi da Fornaro. Però questa riforma, scusi Ceccanti, è una riforma di legge ordinaria o costituzionale, quindi anche qua si parte con l'iter costituzionale. Esatto, dentro la Fornaro poi c'è un secondo correttivo che prevede che per mantenere il rapporto tradizionale tra parlamentari e delegati regionali nel collegio per eleggere il Presidente della Repubblica si riducano di un terzo anche i delegati regionali, per cui ogni regione ne avrebbe due, non più tre. E questo è importante, anche se questo ha un'importanza minore, perché poi questo va per il 2029, l'elezione presidenziale prevista del 2029, non per quella del 2022 con cui voterà questo Parlamento e quindi con il numero di delegati regionali. Poi inizierà il lavoro sui regolamenti parlamentari, che è relativamente più semplice perché ogni Camera dovrà votare solo il suo e quindi è ragionevole pensare che con un lavoro istruttorio di pochi mesi la riforma dei regolamenti possa andare in porto. Mi sembra che invece insistere eccessivamente sul ruolo della legge elettorale sia un po' sminuente l'operazione che dobbiamo fare. Per di più c'è una proposta del Partito Democratico che verrà presentata, credo, tra questa e la prossima settimana, che prevede di aggiungere ulteriori riforme costituzionali riprendendo due intuizioni di fondo. Una del professor Kelly, cioè che una volta che noi abbiamo ridotto i numeri a 600 come somma di Camera e Senato, tanto vale riunire insieme il Parlamento in seduta comune per svolgere alcune importanti funzioni come fiducia, sfiducia e legge di bilancio e per esempio presentazione del Presidente del Consiglio alle Camere prima e dopo i vertici europei, che oggi vengono fatti in maniera un po' surreale a Camere separatamente. Io però devo chiudere, se vuol concludere il ragionamento Ceccanti? Cioè forse no, io dico questo, per cui stiamo attenti, i veri correttivi a una riforma costituzionale stanno anzitutto in Costituzione. Va bene, va bene. Grazie onorevole Ceccanti. Questo l'obiettivo, diciamo, di questa intervista era quello di farci chiarire e capire nelle intenzioni della maggioranza qual è, diciamo, l'ordine dei lavori, perché dopo questo referendum che è stato ampiamente votato, però ci sono una serie di correttivi che poi queste sono anche valutazioni più o meno soggettive, che possono essere considerati necessari o meno di carattere politico, di carattere costituzionale, come per esempio la legge elettorale, ma insomma andranno fatti, e questo era il breve menù. Adesso invece Carlo Genta, ciao Alessio. Anticipo del pomeriggio sportivo, ieri calcio e poi... ieri sera Benjamin Button Ibrahimovic, 2-0 del Milan, doppietta per lui, e aspettiamo domani l'Inter e la Lazio, sono tre partite, domani sera chiuderanno il primo turno. Intanto oggi la pubblico Juventus, sugli spalti a Milano. Sì, pubblico sugli spalti, i mille ammessi che sono poco rispetto ai numeri normali del calcio, ma certamente tantissimo anche dal punto di vista, insomma, dell'immagine delle sensazioni di questo piccolo pezzetto di libertà al momento conquistata, speriamo diventi ancora maggiore, naturalmente tutti insieme in coro. La Juventus saluta Morata. E poi c'è questa indagine della Guardia di Finanza di Perugia che non coinvolge Suarez, perché è stato non è indagato lui, però c'è questo pasticciaccio brutto che fa sorridere molti, che però invece è una cosa estremamente seria, un'indagine che peraltro, ma questo non è compito mio raccontarlo in tutti i convocati, esatto. l'abbiamo fatto noi, sgravato di questo, è compito tuo, un'indagine che va a voi naturalmente tempo. Di ragionare fatto d'altro. Sta che la Juventus prende Morata, quindi Dzeko rimane a Roma, immaginiamo estremamente deluso perché il trasferimento era praticamente già inchiostrato, e De Laurentiis si ritrova con il Cerino Milik in mano. Questo è un triangolo molto interessante. E questi sono tutti argomenti per questi voi. Sì, questi ci grazie Carlo, appuntamento ciao. Dopo il GR delle 14 con tutti i convocati. Piccola pausa, torniamo tra un attimo insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite, su aruba.it.